lascia che il tempo abbia la sua parte e tieni il passo più sicuro. Metti coraggio, buone scarpe, prendi la strada che non fa nessuno. E per la via rancore e pentimento, tutto il clamore che la vita fa, ogni promessa e giuramento, debito e lealtà. Ce n'è bellezza, guarda bene, anche se a volte non si fa vedere. Prima del viaggio l'ultima carezza di chi resta. Buona vita per te e per me. Buona vita perché ha il cuore inquieto. Buona vita perché è partito libero. Buona vita perché è tornato indietro. Buona vita per le mie mani, le tue. Buona vita per queste luci spente. Buona vita per tutti i giorni distanti. Buona vita e per la vita che è qui. Ti assicuro una parte di te. Metto al sicuro una parte di me. E passano i sogni buoni da consumare. Sembra saggezza la stupidità. E tutto cambia e resta uguale, né sogno né realtà. E tieni fermo il cuore che gira il vento. Ogni buon senso sta a digiuno. Ogni parola fa silenzio, polvere e fumo. E anche l'amore si nasconde bene, lontano dove non si può vedere. Fosse il pensiero dietro la tua fronte, per tutte le risposte. Buona vita per te e per me. Buona vita perché ho il cuore inquieto. Buona vita perché è partito libero. Buona vita perché è tornato indietro. Ti assicuro una parte di te. Metto al sicuro una parte di me.